piena di te, indomabile, ma fragile come me. Mi accorgo che non contano niente le incomprensioni nate tra noi. C'è una verità che leggo negli occhi tuoi. In fondo al tuo cuore c'è la mia immagine. Guarda quanto assomiglia a te. Magica.